728. Marena da trastullarsi. La marena più signorile è quella sopra descritta, ma se la desiderate da bere e da mangiare, come usa in alcuni paesi, mescolate in quella precedentemente descritta delle ciliegie giulebbate nella proporzione seguente. Ciliegie marasche chilogrammi 1,500, zucchero finissimo in polvere chilogrammi 2. Levate i gambi alle ciliegie e tenetele al sole per 5 o 6 ore, poi mettetele al fuoco con un pezzetto di cannella e quando avranno buttato una certa quantità di umido, versate in esse lo zucchero, avvertendo di mescolare adagio per conservare le ciliegie intere. Quando saranno divenute grinzose ed avranno preso il color bruno, levatele e servitevene per l'uso indicato.